ce ne vuole. Ancora ce ne vuole. Va bene, bene. Dica. Buonasera, Sandro Tigre. Ui, ciao Giuseppe. Guarda, te ne stavo per staccare l'antenna, Dove c'è? No, ho capito. Che te ne stavo per staccare l'antenna. Cappa. Cazzo, sono arrivato e non c'eri, E dov'eri, sa? Dov'ero? Dove c'avevi il parcheggiato la macchina? Ma dov'eri, a Pradaneta? Lì dove c'avevi parcheggiato la macchina, a lavaggio. Perché mi ha chiamato Claudio che dovevo fare una cosa urgente, dunque sono andato direttamente a prenderlo, perché se no non riuscivamo a fare questa questione, capito? Sa. Sì, vabbè, dai. Vabbè, già ci sarà qualche altra occasione, dai. Vabbè, non c'è problema, sai. Tu lo sai che lo patrocina Claudio e noi o il sabato sera oppure la domenica mattina ci troviamo tutti quanti lì al quadrato e siamo lì dalle 10:30 in poi, dai. Comprendendo. insomma, ho preso non essere che quello che compra un attimo magno, un attimo 150 watt. Cazzo, sì, ero la santissima attenta a demoliare voi, che tu che manta, tu vento, vai, che soppa su coperchio, lì, che sono nuove, questo magno, e che sono le chiese su coperchio, vai. Mondezza generale, mondezza proprio, mondezza. la mettesi una maglia, ma fai che si scifo, a buttare su poco. bel casino, compreso. Poi su Cagliari ho passato come da campione a Samitland, su mio è stato leato, no, capito, su frequentemente computerizzato collegato, e si è stato leato come te fuori, che è stato giunto a Samitland, compreso, proprio giunto in Nie, Centro America, che l'hanno leato direttamente. Capite come che sta Ranger Electronics, e io sono mai detto, tutto lui sai a fare, questo apparecchio, compreso, non è assurda l'impreare gai, ecco che poi questa versione modificata, è stata modificata con questo motivo, canaito, però io non sia una telefonia, sono un problema che crea Iana, capite una ragazza, ma cazzo non è tutto a posto, invece non fu tutto a posto, e via, e questo è che sta a finire di questo apparecchio, che l'ha finita, che l'ha giunto tutto apposta io, ho anche l'ha giunto l'ingegno elettronico, compreso, dico so che faccio corso, ma non attimi, di nuovo, sul discorso è curto, sono questo apparecchio, non l'ha dato come esempio, facendo il cuore, poi Sammy Dram ha fatto la richiesta, mi hanno controllato e fu vero che ebbe comunque questo problema, ma non ho tutti i fritti o meno, se cagli tutto, no? mezz'orata, una mezz'ora, poi non ha proseguito più, cioè. Non ha proseguito più, come ci sono andato, poi si è attestato, si è occupato di magone, si è una modificante, si è una toccante, si è una toccante, passa l'occhiente, battente, il puliente, doppiente, puliente. E tanto nulla, non ha proseguito, non è possibile andare a seguire. Decentemente. rientro alla rapido, 10 da fora, la blu, vero e proprio, con la blu, fai la parola ogni luogo, mi sembra proprio stessa parola, cioè significa che spuri armoniche, disturbi, plattera sabbata mezza canale, come ti chiesi per il luogo, poi su, vabbè, se vuoi spesso gorgoglio, insomma, non so che problema, sa, creato da una sezione finale inadatta, cioè Badanare, che ingegnere che l'ha fatto la sua possibilità di concorso, sa, io non modifico la sega sai, no? questa è una tema che si serata con un altro radio. E collega sa che sta tutto quanto, tutto si rimesse a sotto radio e lo vuole suonare. Secondo te, come si lo modifica a me, come si lo modifica di fare tutto quanto? Immagina di noi te sarà l'andese. Va bene, ti mollo lì. Andiamo, teniamo qua.